ma è una cosa chiaramente ridicola e purtroppo sintomo di questa atmosfera da anni 30 che c'è ormai in questo paese. Cioè, fra un po' ci sarà l'ora la patria, le inique sanzioni e andremo a conquistare l'impero. Fa ridere per una serie di ragioni. La prima è che mi sembra che abbiano già dimostrato che in realtà la percentuale di musica italiana trasmessa dalle radio è già superiore alla quota che si vorrebbe imporre, quindi in realtà si sfonda una porta aperta. Secondo, è noto che ormai l'ascolto musicale è estremamente frammentato, c'è Spotify, c'è internet e quindi ogni tentativo di regolamentazione è superato inevitabilmente dalla realtà, è sempre stato così, tanto più oggi quando il mondo gira a una velocità vertiginosa. Terzo punto, è molto curioso questo, io l'ho scritto, ho fatto un commento su questo argomento sul mio giornale qualche giorno fa quando è uscita la proposta di Alessandro Morelli. È molto curioso, noi abbiamo un governo che è il più francofobo dai tempi di Mussolini, abbiamo avuto una crisi diplomatica con la Francia senza precedenti quando Macron ha ritirato l'ambasciatore dopo che Gigino era andato a incontrare i Gilets Jaunes, e curiosamente però questa è una tipica legge alla francese, cioè in Francia dal 1994 esiste la legge Toubon che in un quadro più complessivo di tutela dell'identità culturale del paese ha imposto una certa quota di canzoni francesi alle radio, che nel caso è del 40%, per cui è piuttosto paradossale insomma che il nostro governo misogallo, come avrebbe detto Alfieri, sia poi in realtà copi la legislazione francese. Aggiungo che però la difesa dell'identità culturale del paese andrebbe attuata in toto, e quindi forse il governo dovrebbe occuparsi invece di queste scemenze, di tutelare per esempio i musei, gli archivi, le biblioteche che vanno in malora, di tutelare la cultura musicale italiana alta, mi riferisco per esempio ai teatri d'opera che sono in situazione preagonica, e per esempio la lingua italiana, ma visto come parla l'italiano la maggior parte dei componenti del governo Conte non credo che sia possibile. E allora una battuta te la chiedo anche su questa discesa in campo, diciamo così, di Mogol e della SIAE, insinuo un sospetto, è una questione di diritti d'autore, perché come si spiega insomma, questa scelta? No, Mogol e la SIAE difendono giustamente i loro interessi e i loro associati, cioè è chiaro che la SIAE, essendo società italiane di autori e editori, difende giustamente gli interessi dei suoi aderenti. Sarebbe come andare dai sindacati e dire: volete che i vostri soci guadagnino di più e lavorino di meno? È ovvio che ci stanno, però ripeto, a me sembra un provvedimento che fosse anche giusto nelle motivazioni, ma è assolutamente antistorico, cioè è l'ennesima prova che noi abbiamo una discrasia fra la politica e la realtà, fra il mondo legale e il mondo reale, che è sempre più ampia, perché è un provvedimento che poteva essere concepito 30 anni fa, oggi è semplicemente non ha senso, siamo in un mondo globalizzato, la gente sceglie cosa ascoltare, anche in questo caso il mercato è la soluzione migliore.